con Alessandro Milan. Sono le 9:09, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it. Le hanno chiamate giornate della legalità. L'obiettivo è raccogliere firme e promuovere un referendum contro il lodo Alfano, la legge che sospende i processi per le 4 più alte cariche dello Stato durante il periodo in cui sono in carica. La politica, insomma, torna in piazza, una parte della politica, da domani con l'Italia dei Valori, ma non solo. Saluto Antonio Di Pietro, buongiorno e ben ritrovato Di Pietro. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori e agli interlocutori. Leader dell'Italia dei Valori, da domani in piazza. Così come saluto il senatore Carlo Giovanardi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Buongiorno Giovanardi. Buongiorno. Ovviamente parleremo della manifestazione di domani, ma anche dell'attualità politica, perché no, anche della crisi in corso, ancora forte l'eco delle polemiche, l'avete sentito, della norma ribattezzata Salva Manager che è stata scovata da Milena Gabanelli, verrà tolta molto probabilmente. Ci sono temi politici molto stringenti di cui parleremo in questa chiacchierata, in questo faccia a faccia tra Antonio Di Pietro e Carlo Giovanardi. Antonio Di Pietro, Carlo Giovanardi. Di Pietro, lei domani scende in piazza, non solo, ovviamente ci spiegherà il perché ora per raccogliere le firme, io ho detto per il referendum contro lodo Alfano. La critica che qualcuno ha fatto, ha detto: ma come, c'è una sentenza della Corte Costituzionale in attesa per decidere se il lodo Alfano è costituzionale o no, a questo punto che senso ha andare in piazza per raccogliere firme? Lei che replica? Ripeto ancora buongiorno a tutti e guardi, se ogni volta e siccome per ogni legge può intervenire la Corte Costituzionale se qualcuno lo chiama in causa, vorrebbe dire che non si potrebbe mai fare i referendum. La verità è che il referendum è un istituto democratico con cui si chiede ai cittadini di esprimere la loro valutazione politica, morale, di opportunità, se cioè una società vuole che quella legge ci sia e sia fatta in quel modo. E questa a prescindere dal fatto che sia illegittima o meno. Ci sono delle leggi che possono essere legittime ma incostituzionali, ma immorali. Ci possono essere leggi legittime e immorali, legittime, illegittime anche e nonostante questo anche immorali. Detto questo, io faccio parte di quei cittadini che in Italia ritengono che la legge debba essere uguale per tutti. È stata fatta una legge che permette a 4 cariche solo di non essere processate durante il loro mandato. Io credo invece che quando c'è una persona che ha un incarico pubblico importante e più vi è la responsabilità di che i cittadini sappiano prima se è una brava persona o meno, perché saperlo dopo è un po' una fregatura, perché quando ormai la frittata è fatta è inutile che dire rifaccio l'uovo. Ecco perché io ritengo che raccogliere le firme sabato, ma non solo sabato nei prossimi giorni, adesso non voglio rubare il tempo agli altri ospiti, ma vorrei poi spiegare come tecnicamente questo avverrà affinché chi la pensa come me possa firmare questo documento. Ma lo faremo, ma tra l'altro sul sito, sul suo blog antoniodipietro.it c'è ovviamente tutto. L'altra critica è questa, ha sentito le borse, insomma c'è un crollo. In questo momento di grave crisi davvero l'emergenza giustizia o l'emergenza lodo Alfano è in primo piano secondo lei? Sa che c'è anche un dibattito in questo all'interno del Partito Democratico e qualcuno ha detto: ma come, andiamo in piazza il 25 ottobre in questo momento? Guardi, ha ragione, con tutti i problemi che ci sono nel paese bisognava e bisogna occuparsi di questi problemi, ma non è colpa mia se invece di occuparsi di questi problemi chi al governo ha fatto il lodo Alfano, sta facendo il lodo intercettazioni, ha fatto ieri il lodo salva premier, ha messo all'ordine del giorno della commissione giustizia il lodo consul, ha fatto il lodo salva rete 4. Insomma, non è colpa mia se in questi 5-6 mesi solo provvedimenti in materia di giustizia sono venuti in evidenza, e questi provvedimenti per giunta sono venuti in evidenza e sento provvedimenti che favoriscono solo alcune persone, non che sono nell'interesse di tutti i cittadini. Guardate, non so se avete idea, ieri è stata sventata una norma che era stata messa dalla maggioranza, che è stata messa su ordine di qualcuno, di cui si deve ancora sapere chi è il mandante. La norma di ieri, che fatto su un provvedimento all'Italia, sul decreto all'Italia, quindi proprio su un provvedimento economici, in un momento così delicato per l'economia, ebbene ieri è stata messa una norma in cui era prevista la irresponsabilità, cioè non punibilità né penale né civile né amministrativa di quei manager, non solo all'Italia ma di Cirio, Parmalat e quant'altro, che hanno contribuito al dissesto di quelle aziende e soprattutto hanno rovinato risparmiatori e consumatori. Lei vorrebbe sapere il mandante, vorrebbe sapere. Certo che lo voglio sapere, io lo so il mandante, ma insomma, e ce lo dica, secondo lei chi è? Benedetto il Signore, è proprio quella casta che sta intorno a quelle persone che ne rispondono. Voglio dire, sai chi sono i coloro che innanzitutto sono favoriti da questo? Tanzi, Cragnotti, Geronzi. Quindi allora, sono loro, secondo lei, i veri loro mandanti? Loro sono i beneficiari, e voglio dire, qualcuno che l'ha fatto pensando a loro. E allora si scopra cosa c'è dietro questa storia. E soprattutto all'interno della maggioranza, all'interno del Parlamento, quelli che hanno presentato l'emendamento, mica la mano gli è scappata da solo, qualcuno gli ha messo la penna in mano. Ma guardi, di questo parleremo ovviamente, come detto. Senatore Giovanardi, facciamo un passo indietro, poi veniamo ovviamente alla questione della salva manager, come è stata ribattezzata e che è stata sventata, visto che verrà tolta sostanzialmente. Prima di tutto, Giovanardi, la piazza di domani che cos'è secondo lei? Come la vivete? Come un qualcosa che non vi toccherà? No, io la vivo come l'esercizio di un diritto democratico, con un obiettivo totalmente sbagliato, perché Di Pietro ha un bel da dire che tutti devono essere uguali davanti alla legge, ci sono funzioni diverse. C'è una categoria, per esempio in Italia, che è inamovibile, che fa carriera fino al massimo grado con automatismi al di là del merito, che se compie anche gravi errori disciplinari, insomma anche se commette azioni nella sua attività molto gravi, ha una magistratura domestica, il Consiglio Superiore della Magistratura, parlo dei magistrati. Infatti glielo stavo per chiedere, immaginavo. Vengono trattati molto diversamente dagli altri cittadini, perché la Costituzione ritiene che la funzione che svolgono li metta al riparo da questioni che toccano gli ingegneri, gli avvocati, i medici, i quali tutti rispondono degli errori che commettono, salvo i magistrati che non ne rispondono. E l'ordinamento ha pensato di dargli un'autonomia particolare per la funzione che svolgono, quindi che il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio o il Presidente della Camera e del Senato siano funzioni che non hanno bisogno di un particolare riguardo in un paese in cui, come ho più volte dimostrato, decine di politici ad altissimo livello sono stati massacrati, distrutti, salvo poi risultare totalmente innocenti. Ero ieri a casa della vedova di Antonio Gava, un altro, lo ricordo perché ero ieri con questa squisita signora veneta, il marito, ministro degli interni, ha subito l'onta del carcere, è stato incarcerato, poi è stato prosciolto con formula piena da tutti gli addebiti che erano stati rivolti, ma nel frattempo era stato distrutto. Quindi questo concetto di dire che noi non possiamo avere normalità di una classe dirigente che possa rivolgersi ai problemi del paese, ai grandi drammi che stiamo vivendo dal punto di vista economico, perché c'è sempre qualche magistrato, magari ideologicamente orientato, che ritiene di fare politica attraverso le iniziative giudiziarie e mettere sotto scacco i vertici dello Stato. È una cosa inammissibile, ma non solo in Italia, in tantissimi paesi del mondo. Lei rivendica il diritto di avere il lodo Alfano, una legge? Sì, rivendica il diritto che mentre uno fa il capo dello Stato, il Presidente del Consiglio, il Presidente di Camera e Senato, le iniziative penali nei suoi confronti vengono rimandate a quando non svolge più questo ruolo. Senta, non senatore, mi sembra una cosa particolarmente lei fa parte del governo. Questa norma salva manager che è stata inserita, lo voglio ricordare, da due senatori, insomma, il senatore Paravia e il senatore Cicolani, che oggi vengono intervistati un po' ovunque, anche ieri alla Zanzara con Giuseppe Cruciani, hanno detto: ma noi pensavamo che fosse solo una cosa per un paracadute, insomma, per Fantozzi e per la questione all'Italia. Sicuramente non è estendibile ai nomi, per esempio, che si leggono sui giornali, che ci ha fatto Di Pietro, Cragnotti, Tanzi, Geronzi. Ora tutti però si chiedono, e anche loro dicono: ma pensate che noi possiamo fare una cosa del genere senza che nessuno alzi la manina all'interno del governo a dire questo non va bene, questo va bene. Insomma, la questione del mandante, il governo davvero non sapeva niente, nessuno al governo non sapeva niente, Giovanardi? Guardi, io non so chi sia il mandante, io so che il ministro dell'economia Tremonti è andato al Senato ieri a dire o questa norma, questo emendamento viene tolto o se ne va via il ministro dell'economia, quindi mi sembra che il governo reagito. L'avrebbe fatto, l'avrebbe fatto anche se non fosse stato scoperto da Milena Gabanelli questo... Guardi che gli emendamenti, non so se l'ha scoperto Milena Gabanelli o se ne hanno scoperto altri o se nel dibattito parlamentare sarebbe emerso che scritto come era scritto c'era il rischio che potesse essere interpretato anche a favore di. Quando il governo ne è venuto a conoscenza, nella sua massima espressione, è andato in Parlamento e ha detto questa norma via, non se ne parla neanche. Mi sembra che anche qui in una dialettica politica, democratica e civile, l'opposizione dovrebbe prendere atto che il governo nella sua massima espressione ha bocciato quell'emendamento e quindi mi sembra che il problema sia risolto. Ma è stato il governo a dire in Parlamento via quell'emendamento. Onorevole Di Pietro, e qualcuno dice e l'opposizione dov'era? Perché voglio dire, un emendamento viene presentato in Parlamento. La ringrazio perché mi scuso con lei e con gli ascoltatori, ma vorrei ricostruire questo fatto perché davvero è incredibile le falsità che si stanno costruendo intorno a questa vicenda. Il decreto Alitalia viene portato all'attenzione del Senato. Prima di discutere il decreto Alitalia è l'Italia dei Valori, dico l'Italia dei Valori, gruppo parlamentare dell'Italia dei Valori, che presenta agli atti, quindi carta canta come si dice dalla mia parte, presenta una questione di pregiudizialità costituzionale. Tecnicamente vuol dire, dice prima di esaminare questo provvedimento, guardate che dentro questo provvedimento c'è una norma, appunto la salva manager, che è incostituzionale perché permette ad alcune persone di non rispondere di fronte alla legge. È un po' come il lodo Alfano. Il lodo Alfano è per 4 cariche dello Stato, questi è per i grandi manager delle grandi aziende che truffano, che vengono truffati i risparmiatori. Allora, su questa questione, carta canta, l'Italia dei Valori, prima ancora che si discutesse al Senato, ha presentato una questione di pregiudizialità costituzionale. Ebbene, lo devo dire perché la cosa è delicata, in quella norma il governo lì presente ha espresso parere contrario, la maggioranza è il Partito Democratico e la maggioranza ha votato contro, cioè si è assunta la responsabilità di dire che quella norma doveva restare. Adesso fanno finta che se ne sono accorto solo ad ora, ma le posso assicurare che c'è la verbalizzazione del Senato che quella norma era stata denunciata già da noi dal primo giorno. Non mi perdoni, perché la cosa è ancora più grave, perché nel mentre la Casa della Libertà ha votato contro e quindi era al corrente, nel mentre il governo ha dato parere contrario era al corrente, il Partito Democratico si è astenuto. Ecco, qui voleva arrivare, proprio sul Partito Democratico. Si è astenuto, cioè secondo lei al Partito Democratico sapevano di questa cosa? Cioè non ci siamo capiti. Allora lo ripeto un'altra volta. Stavamo dentro il Parlamento, dentro l'aula. Dentro l'aula è stata letta una nostra mozione, un atto formale, cioè con cui si chiede all'aula, signori del governo, signori del Parlamento, tenete presente che questa norma contiene una specificazione che permette ad alcune persone di rimanere impuniti, che sono i manager delle grandi aziende, e ci sono anche dichiarazioni ansiosa su questo punto. Quindi non è che lo sapevano, hanno votato, non mi può dire che non lo sapevano. Abbiamo posto il problema, il governo ha espresso parere contrario sulla nostra questione, il Parlamento ha votato e tutta la maggioranza ha votato contro questa denuncia che abbiamo fatto noi, e l'opposizione è stata pilatescamente il Partito Democratico a guardare. Rispetto a tutto questo, sono felicissimo che Gabanelli l'abbia rilanciato questo tema, sono felicissimo che ieri la Repubblica l'abbia rilanciato questo tema, ma benedetto il Signore, forse se invece di dire che l'Italia dei Valori è una formazione politica che è sempre di traversa, se ci ascoltassero un po' avrebbe evitato questa figuraccia. Adesso il governo dice ma noi l'abbiamo tolto, ma certo che l'hai tolto, hai fatto sono lacrime di coccodrillo, sei stato preso con le mani nella marmellata, cosa vuoi fare? Hai detto lei dice sostanzialmente il Partito Democratico si aspettava una sponda maggiore, voglio dire, le chiedo anche che termometro è nei rapporti col Partito Democratico, lei lo voleva in piazza domani? Per esempio. Guarda, io il 25 ci sarà la manifestazione del Partito Democratico e noi ci saremo, e mi risulta che una parte del Partito Democratico il 25 metterà in piedi insieme alla manifestazione tanti tavoli per raccogliere le firme per il referendum contro il lodo Alfano. Domani nella manifestazione ci saranno tanti esponenti del Partito Democratico. Il Partito Democratico è un partito grande, enorme, con tante anime, e ci sono delle anime che ritengono che questo tema non vada affrontato e ci sono delle anime che ritengono invece che questo tema vada affrontato. Comitato. Nel Comitato referendario fanno parte esponenti di primo piano del Partito Democratico, come per esempio Arturo Parisi, che non è l'ultima arrivata ed è certamente una persona in buona fede. Non è la persona che non gliele manda a dire, però, a Walter Veltroni, lo sappiamo, Arturo Parisi. Non è sempre allineato con la linea del partito. Comunque, Giovanardi voleva replicare la ricostruzione parlamentare che ha fatto Di Pietro? Come al solito Di Pietro ha la tendenza, dico, a imbrogliare, fra virgolette, no? Cioè a raccontare cose che non hanno nessuna attinenza con la realtà, perché la questione di pregiudiziale di costituzionalità è come se un medico, visitando un ammalato e gli trova l'appendicite, come terapia gli taglia la testa. Cioè una pregiudiziale di costituzionalità, se accettata, vuol dire che tutto il provvedimento all'Italia decade, non esiste più, quindi fallisce l'Italia, tutte le trattative sindacali fatte con imprenditori, con l'accordato, con i sindacati finiscono in nulla, perché se si riconosce questa pregiudiziale crolla tutto. Quando, per questo che anche il Partito Democratico si è astenuto, evidentemente, perché non poteva ammazzare il provvedimento. Poi, quando si incomincia a parlare del provvedimento, ci sono i singoli emendamenti, le singole norme, e lì giustamente è stata fatta l'operazione di togliere l'appendicite. Cioè Tremonti ha detto quella norma via e viene tolta. Ma sulla pregiudiziale, ripeto, è come sarebbe decaduto tutto, malato per guarirlo. E ci sarebbe decaduto tutto, e quindi avrebbe creato quindi un problema. Prova di irresponsabilità assoluta ancora una volta di Di Pietro, che avrebbe tagliato la testa all'Italia, tutta la trattativa, facendo finire in nulla mesi di tentativi di salvare questo organismo. A 800 24 00 24 per intervenire. Allora, diamo un attimo di pubblicità, poi ripartiremo. Ovviamente ci sono gli ascoltatori che già stanno chiamando, mi raccomando, questa volta ancora di più sintetici gli ascoltatori, domande o a Di Pietro o a Carlo Giovanardi, sono qui a rispondere per voi. La seconda parte di Viva Voce, 800 24 00 24 per intervenire, Antonio Di Pietro e Carlo Giovanardi, oggi di attualità a parlare. Prima degli ascoltatori, Deborah Rosciani, aggiornamento importante dalle borse, prosegue purtroppo la discesa? Prosegue la discesa, è una vera e propria tempesta di vendite, di ribassi, pensavamo questa settimana di aver visto davvero tutto, invece non è finita qua. Dopo il crollo di Wall Street di ieri sera, che è stato replicato questa mattina in Asia, le borse ripetono lo stesso andamento, anche se ci può consolare rispetto al calo di 10 punti percentuali che avevano gli indici nell'immediata fase, nella fase immediatamente dopo l'apertura. Adesso i cali sono nell'ordine del 7%, meno 8 Francoforte, meno 7,70 Parigi, Londra meno 8, Milano meno 7,95. Tutti i titoli che non riuscivano ad entrare in negoziazione per eccesso di ribasso adesso invece sono regolarmente contrattati. C'è qualche titolo sospeso, ma la lista è diminuita. Sospese Fastweb ed Unipol, che perdevano fra il 10 e il 12%, Terna fa meno 10, Unicredito meno 10, Intesa San Paolo meno 9,75, meno 9%, per Seat pagine gialle. Mi fermo qui, ma oggi il tenore è questo. Alle 9.32 minuti, 800 24 00 24, due ascoltatori, anzi la prima è un'ascoltatrice, Anna da Napoli, buongiorno. Buongiorno, sono una editrice di Di Pietro e senza enfatizzare, lui non mi ha deluso, il Lodo Alfano però. Lodo Alfano io non sono contro, nel senso che chi ha avuto il mandato dagli elettori svolga pure questo compito, senza intralci. Quello che io non avrei voluto è che personaggi con grossi impegni nei tribunali non venissero poi presentati e magari fare presidenti del Consiglio. Una cosa volevo dire a Giovanardi, per essere sintetica, io mi vergogno da campana di aver avuto un parlamentare come Gava. La situazione napoletana è ancora sotto la vergogna di quel periodo. Grazie, buongiorno. Va bene, due flash. Di Pietro, ha sbagliato la signora a votare Italia dei Valori, ma a essere non proprio contrario al Lodo Alfano? Ha sbagliato partito, no? No, assolutamente non ha sbagliato partito, perché la signora dice questo e dice una cosa che in un paese normale sarebbe normale. Quando una persona vuole andare ad assumere incarichi così importanti, sarebbe bene che corresse prima dal giudice, che invece che correre in Parlamento e farsi una legge per non farsi processare, perché questo dà un'idea che la legge è uguale per tutti e quindi poi tutti i cittadini si sentono più tranquilli. Io però vorrei, se mi permetta, vorrei rubare davvero un minuto, ma soltanto per precisare, collega Giovanardi prima mi ha dato dell'irresponsabile, perché con la pregiudiziale di costituzionalità che avremmo proposto avrebbe fatto cadere tutto il decreto Alitalia, quindi sarebbe crollato tutto eccetera. Mi permetto di dire su questo, chiedo un giurì d'onore se fosse possibile, e comunque la prego di interpellare qualsiasi professore di diritto costituzionale, che primo, la pregiudiziale di costituzionalità bastava togliere quella norma che noi denunciavamo come incostituzionale, e a quel punto diventava inammissibile e quindi non faceva cascare niente. Se si fa una pregiudiziale di costituzionalità rispetto ad un articolo di una certa legge che è incostituzionale, si toglie l'articolo e quindi la norma è incostituzionale. Il decreto Alitalia era una cosa, all'interno del decreto Alitalia inserire che quelli di Parmalat e di Cirio o di tutte le nefandezze che sono state fatte non devono rispondere di reato, non ci azzeccava proprio niente. Secondo, per quanto riguarda il fatto di dire poi nel dibattito ne usciva, ne sarebbe sarebbe avvenuto nel dibattito come è avvenuto, vorrei segnalare una cosa: questa pregiudiziale di costituzionalità è stata fatta al Senato quando la legge, questo decreto Alitalia era ancora al Senato, si è votato e quindi tutto il Parlamento, ad eccezione nostro, l'ha votato questa norma e poi è venuta alla Camera, quindi sì. Non è dire, ecco, l'ho voluto dire, no mi perdoni, capisco che a lei interessa altri temi, però no, vabbè, non si può, non si può. Io anche altri pazienza. Temi ne abbiamo parlato a lungo. Capisco, mi perdoni, qui stiamo parlando di una questione tecnica. Sta a vedere, sì, che adesso no, ma sicuramente, la colpa è mia che ho scoperto il fatto. No, non di Giovanardi chi vuole replicare su questo, però poi chiudiamo e passiamo sì, anche no, oltre, altrimenti ci sono altri temi. Sì, dica. Un professore di diritto costituzionale avrebbe cacciato Di Pietro, non avrei preso neanche 18-15, perché quello che ha detto è surreale. Il testo su cui si presenta la pregiudiziale è il testo che arriva in aula. Se quel testo viene respinta la pregiudiziale si va avanti, se no viene cassato tutto, quindi dice cose che non stanno in cielo né in terra. No, mi dispiace per Gava, perché sì. Vede, quando si confonde sempre la passione politica con i giudizi legittimi, qui questa signora ha parlato di una situazione napoletana dove da vent'anni comanda la sinistra, Bassolini eccetera eccetera, lei Ervolino, e questa signora davanti a una persona perseguitata che vede in casa innocente non fa altro che ripetere slogan di odio politico, oltretutto dando una responsabilità di una situazione napoletana dove da vent'anni Gava non c'entra più nulla. Va bene, no, ma è stata la sua precisazione. Certo. Beppe dalla provincia di Campobasso, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Buongiorno a tutti gli ospiti. Vorrei fare una domanda all'onorevole Di Pietro. Per quanto riguarda il lodo Alfano, se non hanno nulla da nascondere le quattro alte cariche dello Stato, perché non si fanno processare giustamente? Noi sappiamo già che il Presidente del Consiglio attuale, Berlusconi, aveva già dei processi prima che entrasse in politica. Se non ha nulla da nascondere, perché non si faccia processare? Noi siamo qui che vogliamo sapere la verità e soprattutto non vogliamo sentire più bugie. Vogliamo ricordare Beppe, questo per una questione tecnica, il lodo Alfano sospende i processi fin tanto che uno in carica. Vabbè, è un assist che risponda a Di Pietro che vuole replicare. Forse è meglio che risponda questo, Giovanardi più come sì, critica. Lascio subito la voce. Facciamo una cosa. Facciamo per un momento solo, riflettiamo. Non c'entra Berlusconi. Un domani, vogliamo togliere un attimo perché nessuno di noi è eterno, un domani con questa legge qualsiasi persona, una volta che arriva a una carica, a una di quelle quattro cariche, può fare tutto ciò che vuole, ripeto, lasciamo stare da parte Berlusconi, un domani uno arriva al governo e decide, spaccia, stupra, violenta, rapina, ricatta, tratta di bambine, fa di tutto e di più. Poi esce dal governo e viene processato. Attenzione, ma siccome è così irresponsabile, si fa fare le leggi, e come già sta succedendo, si fa fare delle leggi in cui dice che i giornali sono suoi, i parlamentari li nomina, li indica direttamente lui perché non li possono scegliere con le preferenze degli elettori. In definitiva, una volta che ha finito a fare facciamo il Presidente della Camera, diventa poi Presidente del Senato e poi può diventare Presidente del Consiglio e poi. Allora, Governare, diciamo così, arrivare dopo, a che serve? Ecco perché io dico che bisogna farlo. Vorrei ricordare però una cosa, perché sennò tutti discutiamo di questo referendum e non sappiamo cosa fare. Ricordo che per fare un referendum 500.000 persone devono firmare davanti a un pubblico ufficiale. Quindi bisogna fare dei banchetti con consiglieri comunali, assessori e quant'altri che hanno queste funzioni per raccogliere questa firma. Domani ci saranno 3.500, in 3.500 piazze, tutte le province d'Italia. Guardate sia nei manifesti sia nel sito internet www.antonidipietro.it italiadevalori.it, dove troverete l'elenco dove. Però la manifestazione generale domani si fa a Piazza Navona a Roma dalle 10 della mattina fino alle 8 di sera, un open day, si può venire a qualsiasi ora, si può non solo venire e firmare a Piazza Navona, ma si può, ci sono tanti microfoni dove ognuno ad alta voce a tutti i presenti può dire la ragione della sua firma o le ragioni della sua contrarietà. Corner, no, tipo una, Hyde, ecco, Park, vabbè. Tipo senatore, Hyde Park, senatore Giovanardi, perché cambiamo un attimo tema, la commissione vigilanza Rai, che è una cosa che sta paralizzando un po' parte del Parlamento, cioè non si riesce a nominare il presidente che spetta per prassi all'opposizione, l'opposizione dice è Leo Luca Orlando dell'Italia dei Valori, il partito di Di Pietro, e il premier Berlusconi anche ieri ha detto no, quello lì, cioè per Orlando non va bene. Perché non volete Orlando, Giovanardi? Perché non va bene Orlando? Io non entro nel merito delle persone, entro nel merito di una prassi parlamentare dove da sempre, quando un candidato aspetta l'opposizione o viene espresso da quell'area, per esempio quando si elegge un giudice della Corte Costituzionale, ricordo il caso Mancuso, l'ex ministro della Giustizia, che noi avevamo proposto e che l'allora maggioranza bocciò ripetutamente, in maniera continuativa, cioè l'attuale la loro opposizione, ci vogliono i due terzi dei voti, dicendo un altro nome sì, quel nome non ci sta bene. Quindi non è il fatto che venga espresso dall'opposizione un nome che deve essere un nome secco, quello... Però mi scusi, lei dice non si può parlare dei nomi, però si parla, cioè il dibattito è tutto sul nome, l'opposizione dice il nostro candidato è Luca Orlando e la maggioranza dice... Ho fatto degli esempi dice... di nomi che sì. Venivano dal centrodestra come Mancuso, che è stato proposto per 7-8 volte, è stato bocciato perché per ragioni sue l'altra parte del Parlamento non riteneva che avesse le condizioni ottimali per svolgere un certo ruolo, riteneva che fossero altri ad avere. Ma le chiedo, voglio dire, su Luca Orlando, qual è la questione che ha detto Berlusconi anche peggio di Putin? Cioè non va bene come espressione di garanzia? Io immagino e continuo a ritenere che negli organi di garanzia ci debbano essere persone che hanno dimostrato nella loro attività politica, nel loro modo di pensare, di essere in grado di svolgere una funzione di garanzia. È difficile pensare che possano svolgere azioni di garanzia persone che hanno svolto nella loro attività politica nella prassi o hanno sostenuto posizioni che sicuramente poco hanno a che fare con l'equilibrio della garanzia, anzi sono state molte volte in prima linea in quella stagione dei veleni, dei sospetti, che ha inquinato tanta parte della vita politica italiana, il sospetto è l'anticamera della verità, no? La famosa frase che veniva ripetuta, probabilmente si ritiene che non siano le condizioni ottimali per svolgere un'attività super partes. Di Pietro, rimane Leo Luca Orlando il candidato dell'opposizione, se un domani il Partito Democratico dicesse ma forse per venire incontro proponiamo un altro o una rosa di nomi o un altro nome? Guarda, innanzitutto il principio. Alla Corte Costituzionale, per poter diventare giudice della Corte Costituzionale ci vogliono 2/3 dei voti del Parlamento. Per la Commissione parlamentare ora basta la maggioranza dei presenti. Naturalmente bisogna avere il quorum. Qui non si riesce a eleggere Orlando perché i parlamentari della maggioranza non si presentano a votare, semplicemente non si presentano e fanno ostruzionismo. Quindi nel merito stiamo parlando di una persona che non è né uno squilibrato né uno sprovveduto. È una persona che viene da un'area moderata, dalla stessa area di Giovanardi, una persona che ha fatto il sindaco di Palermo in un momento dedicato e importante, una persona che ha fatto il sindaco di Palermo e ha portato avanti questa sua attività con mani pulite, cioè con le mani davvero pulite, non si è sporcato come tanti altri sindaci di Palermo, ricordiamo Ciancimino per esempio, è una persona che ancora settimana scorsa, 15 giorni fa, in Germania è stato premiato con il premio Adenauer dalla comunità internazionale popolare, la comunità politica internazionale, c'era la Merkel addirittura, una persona che fa politica, conosce la politica, conosce cosa vuol dire, che quando fa, come tutti i parlamentari, quando stanno all'interno di un partito si oppongono, dichiarano, fanno e dicono, ma che nel momento in cui assumono un ruolo di presidente, di garante, sanno cosa vuol dire. Ha fatto però di Pietro quell'intervista, quell'intervista in cui ha detto Berlusconi è peggio di Putin, è come Sud America. Mi perdoni. Vogliamo prendere le dichiarazioni di tutti, quelle di Pietro, di Giovanardi, di Berlusconi, di Schifani, di Fini e di quant'altre persone che hanno fatto dichiarazione di parte quando facevano il gioco di parte, ma quando sono diventati presidenti, è su questo che bisogna valutarli. E poi, mi perdoni, se vogliamo proprio andare nel merito, non è che lo ha offeso più di tanto a Berlusconi, perché è Berlusconi che si dice essere amico di Putin, e tra Putin e il Sud America non so che cosa è peggio, visto che poi Putin, voglio dire, ne ha combinate e ne sta combinando anche lui. Quindi nel merito una critica politica non può essere una ragione per cui non può diventare presidente di una commissione quando questa spetta all'opposizione nominarla, sì, che non è dell'Italia Valori, è una scelta che hanno già fatto tutti quelli dell'opposizione. Certo. Detto questo, per l'amore di Dio, si decida chi bisogna essere e non essere. La verità è, come ha detto Berlusconi, ed è che non è tanto Orlando in quanto tale, e siccome è stato eletto con l'Italia dei Valori, e siccome l'Italia dei Valori è un partito che si vorrebbe non avere da parte di alcune persone, potessimo bloccarlo sarebbe una bella cosa. Marilena dalla provincia di Verona, buongiorno. Io volevo ricordare a Di Pietro che i referendum servono relativamente, perché quello relativo alla giustizia, se si ricorda, molti anni fa era stato stravinto da chi voleva abolire i privilegi, volevamo che venissero condannati, che pagassero anche i giudici che sbagliano. Invece quel referendum lì è stato totalmente disatteso, e vorrei sapere Di Pietro se lo trova giusto, perché ha vinto, mi ricordo, con una maggioranza proprio altissima, adesso non ricordo la percentuale. Perciò servono relativamente al referendum. Di Pietro, che replica? Cioè, tanto l'emblema forse fu quando abolimmo un ministero e lo nominarono con un altro modo e lo rimisero, insomma. Cioè, i referendum vengono poi aggirati, dice sostanzialmente Marilena. Ma è successo anche di peggio, fu fatto un referendum in cui venne abolito il finanziamento pubblico ai partiti, oppure un referendum con cui e quindi venne fatto. Quindi voglio dire, allora lasciamo che tutto vada nel degrado più assoluto, che ognuno possa fare quello che gli pare piace, che ribellarsi a fare, che reagire a fare, se arriva anche una dittatura arrendiamoci, perché tanto è inutile, perché poi vengono sempre loro. Vede, il problema, sa perché il referendum bisogna farlo? Bisogna farlo innanzitutto per smascherare una situazione. Quando andremo al referendum, noi raccoglieremo le firme, si farà questo referendum, quando andremo al referendum voi vi accorgerete che molti partiti si comporteranno come i preti spretati, cioè il fedele in chiesa può andare o non andare, ma sarebbe assurdo che un prete dicesse dall'altare: tu fedele, non venire in chiesa. Allora, quando si fa il referendum, cosa succede? Che molti partiti, per paura del risultato, dicono agli elettori: non andate a votare, non andate a votare, perché se no si raggiunge il quorum e poi il referendum passa. Ecco, allora io denuncio sin d'ora la codardia di questi partiti che hanno paura di confrontarsi, e invece di dire agli elettori: andate a votare, votate secondo coscienza, dite: non venite a votare perché sennò quelli vincono. E questo è bello, vincere ai punti in questo modo. Onorevole senatore Giovanardi, voi temete, l'altra volta alla piazza Navona sappiamo cosa ci fu, strascichi che ancora oggi leggiamo sui giornali, no? Per esempio la causa, l'intervento della Guzzanti, il ministro Carfagna ha detto: chiedo 1 milione di euro di danni, pare sia così. Temete che possa succedere qualcosa del genere domani? No, guardi, sinceramente la cosa che temo in Italia è la continuazione di questo clima per il quale gli Andreotti, i Berlusconi devono finire in galera, devono essere criminalizzati, perché non si capisce perché. Io non lo capisco, non riesco a capirlo, sono miei colleghi al Senato, alla Camera, le trovo persone squisite che lavorano per il Paese, una parte del Paese continua con questa criminalizzazione. Quello che ha telefonato prima dice: Berlusconi ha avuto processi, non aveva mai avuto un processo prima di entrare in politica, ne ha avuto una valanga dopo. E poi per la verità non si parla dei problemi concreti. Io ieri sono rimasto scioccato, lo devo dire, avendo avuto per anni le critiche della società civile contro la politica e i parlamentari, quando ho visto pubblicati gli emolumenti dei manager: 9 milioni di euro, 16 milioni di euro, 37 milioni di euro all'anno. Oh, e quello era legale, cioè non era illegale, perché diciamo quello tutto regolare, con tutti i timbri. Io sono rimasto allibito, anche alla luce dei risultati ottenuti. Ma vogliamo parlare di cose serie? Vogliamo parlare di quello che sta succedendo nel mondo? Vogliamo parlare come col crismi della legalità il sistema bancario, per esempio, è arrivato negli Stati Uniti e in Italia a questi punti? O vogliamo correre dietro sempre ad Andreotti e a Berlusconi, pensando che siano Berlusconi ed Andreotti i nostri problemi per il futuro? Questo mi sconvolge. A proposito di quello che ha detto ieri Berlusconi, onorevole Di Pietro, ha detto: io non costruisco più a Milano, perché so che ai tempi come funzionava, no? Bisognava presentarsi con l'assegno in bocca, la questione delle mazzette. Insomma, ha fatto un tuffo nella questione che fu quella di Mani Pulite. Lei come ha reagito quando ha sentito le dichiarazioni? Sì, di Berlusconi, che ha detto: combatteremo la corruzione. Ora. Innanzitutto vorrei precisare, ha ragione Giovanardi quando dice ci sono dei problemi enormi, come per esempio gli emolumenti dei manager, eccetera, eccetera. Però dal dire al fare poi bisogna essere coerenti. Rispetto a tutto questo che sta avvenendo nel mondo del manager e della speculazione, diciamo così, che cosa è avvenuto? È avvenuto che è stato presentato un emendamento salva manager, non un emendamento trasparenza manager. Ecco perché noi diciamo che c'è una politica del dire e una politica del fare che vogliamo contrastare. Ecco perché noi dell'Italia dei Valori rivendichiamo il nostro ruolo di opposizione, non preconcette fino a se stessa, ma denuncia, di allarme, di segnalazione, che una cosa è il dire e una cosa è il fare. Perché sa, se si dice vogliamo più sicurezza, si tolgono 3 miliardi di euro alla sicurezza, una cosa è il dire, una cosa il fare. Per quanto dice Berlusconi, io l'avevo scoperto con Mani Pulite qual era la Milano da bere dell'epoca. Il problema è che rispetto a quello che avevo scoperto io e che oggi dice Berlusconi che c'era, vorrei segnalare che in tutti questi anni me ne sono presi tutti i colori, perché sembra che la colpa è mia che ho scoperto i reati e non di quelli che l'hanno commesso. Prendiamo atto che Berlusconi, per conoscenza diretta, per sua affermazione che dice appunto che stava con la segna in bocca, riconferma quel che io ho sempre sostenuto. Ma allora si dica le cose come stanno, cioè che c'era una situazione di totale tangentopoli che andava combattuta. I magistrati a loro tempo hanno fatto come quei medici che hanno scoperto un tumore nella società: bisognava curare il tumore e bisognava che il tumore fosse curato in via preventiva dalla politica. Il problema è che chi fa politica e poi chi sta in Parlamento, ma se chi sta in Parlamento è anch'esso qualche persona che ha problemi con la giustizia, è difficile che prenda provvedimenti in materia di giustizia. Ecco perché noi dell'Italia dei Valori abbiamo rivendicato, e già domani a Piazza Navona firmiamo anche un'iniziativa parlamentare di questo genere, coloro di iniziativa popolare, un disegno di legge di iniziativa popolare che dice testualmente: coloro che sono stati condannati con sentenza penale passati in giudicato non possono essere candidati, non possono fare i vigili urbani, non possono fare i bidelli, possono fare i parlamentari. Chi va in galera non va più in Parlamento, allora, perché altrimenti invece di fare il latitante fa il parlamentare. Io devo chiudere, ma io non ho capito, domani la Guzzanti ci sarà in piazza o no? No, domani è una giornata aperta a tutti quelli che vogliono venire. Abbiamo deciso, vedi, non è sì, una, no, è aperta, non ci siamo capiti, non è gli interventi, ci stanno nelle manifestazioni in cui c'è uno che parla e ci sono le masse che ascoltano. Domani è una giornata di 10 ore, dopodomani pure, e così per 3 mesi, tutti i fine settimana, in tutte le province d'Italia, nelle piazze principali, ci saranno dei banchetti per raccogliere le firme. Se facessimo una manifestazione domani di mezz'ora con uno che parla, chi raccoglie le firme? No, ma questo l'ho capito. Firme, volevo capire dalle se 10 del mattina, ci sono degli interventi. Lei, per esempio, parlerà, credo, nel pomeriggio, voglio dire. Volevo capire se la Guzzanti era previsto, tutti quelli che vogliono, se viene lei può parlare anche lei, può prendere la Guzzanti, certo, può parlare tutti quelli che ci vogliono. Mancherebbe. No, io nel ringraziarvi, prima di chiudere devo fare una precisazione riguardo alla puntata di qualche giorno fa. Abbiamo fatto la puntata sugli incarichi plurimi dei parlamentari, no? Ci ha scritto l'onorevole Giovanni Dima, che è stato per qualche tempo anche consigliere regionale della Calabria, oltre che parlamentare. Ci fa sapere che, contrariamente a quanto abbiamo detto, non si è dimesso il 3 ottobre, bensì il 20 agosto dal Consiglio regionale. Il 3 ottobre è il giorno in cui si è preso atto della sua sostituzione, dunque si è dimesso un mese e mezzo prima, e che comunque da quando è parlamentare non ha mai preso il doppio stipendio, anche perché una legge regionale della Calabria lo impedisce. Ci fermiamo qui, questo dovevo, e allora grazie ad Antonio Di Pietro, leader dell'Italia dei Valori, grazie al senatore Carlo Giovanardi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ci fermiamo con viva voce e ci ritroviamo lunedì mattina.